Mix 24, i gialli della storia. L'uomo che parla è Julian Assange. Queste immagini sono drammatiche. Era materiale segretato. È tuttora segretato. Fondatore di Wikileaks. Bradley Manning per alcuni è un eroe, per altri un criminale. Lui è un soldato di nome Bradley Manning, un idealista che nell'esercito si sentiva fuori posto. È la storia di oltre 500.000 documenti segreti diventati di dominio pubblico. In realtà non sappiamo se sia stato Manning a mettersi in contatto con Wikileaks o viceversa. Abbiamo sempre temuto che uno dei nostri informatori venisse scoperto. Questa è la storia vera. Dalle chat sembrerebbe di capire che ci fosse un qualche tipo di contatto fra voi. Di Wikileaks. Non sappiamo se il signor Manning sia o non sia una nostra fonte. E dei suoi segreti. Oltre 250.000 documenti definiti, non classificati, confidenziali oppure ancora più esplicitamente segreti. Sono i file diffusi dal sito Wikileaks sulle attività dell'esercito americano nella guerra in Iraq. Ma ci sono anche i rapporti riservati sulla politica estera degli Stati Uniti, una vicenda che nel 2010 ha fatto rapidamente il giro del mondo. Ma come ha fatto Julian Assange, l'inventore di Wikileaks, a venire in possesso di materiali così scottanti? La risposta si chiama Bradley Manning, un analista dell'esercito americano con accesso diretto a quei documenti. Sotto le armi, la sua vita, anche a causa della sua omosessualità dichiarata, è molto difficile. Ciò nonostante, viene mandato in Iraq, dove può accedere allo sterminato archivio dei documenti segreti. È l'inizio della più clamorosa fuga di notizie degli ultimi anni. E oggi a Mix24 raccontiamo questa storia. È la fine del 2009. Un analista dei servizi segreti militari americani di stanza nell'est dell'Iraq entra in un server riservato. Le vedi tutte quelle persone laggiù in piedi? Quella è un'arma? Sì. L'analista apre un file che ha insospettito gli avvocati militari. Ci sono dai 5 ai 6 individui armati di AK-47. Chiediamo l'autorizzazione a procedere. Falli fuori. Spara. Ok, ricevuto. Continua a sparare. Ricevuto. Spara. Ricevuto. Continua a sparare. Ricevuto. Abbiamo presi tutti e 8. Perfetto. Eccoli là, quei bastardi. Tutti morti. Poche settimane dopo, il video viene visto da Daniel Domscheitberg, che lavora per un sito di denuncia, Wikileaks. Lì per terra ci sono dei morti. Vediamo anche un individuo che sembra ferito e si allontana strisciando. C'era quel pover'uomo che strisciava per terra per mettersi in salvo. Si sta alzando in piedi. È armato? No, non ho ancora visto armi. La sensazione che hai vedendo il filmato è che quei soldati vogliano sparare a tutti i costi. Chiedono l'autorizzazione più volte. Bushmaster, sta arrivando un furgone per prelevare i cadaveri. E stiamo chiedendo l'autorizzazione a... Quando poi arrivano i civili sul furgone, per un attimo speri che tutto vada per il meglio e pensi: ah, meno male, almeno lui ce l'ha fatta. Dai, spariamo! Lo stanno prendendo. Chiediamo l'autorizzazione a procedere. 1-8, procedete. Spara. Dai, spara. Spara. Alla fine però muoiono tutti e il furgone viene preso a colpi di raffiche di mitra. Washington, 20 febbraio 2010. Julian Assange proietta il filmato durante una conferenza stampa. Queste immagini sono drammatiche. Era materiale segretato. È tuttora segretato. Alla fine Assange monta il video e lo trasforma in un breve estratto dal titolo beffardo: Omicidi collaterali. Poi, solo 7 settimane dopo che Assange rende pubblico il video, in Iraq viene arrestato un soldato americano. Il soldato Bradley Manning è stato arrestato fuori Baghdad e si trova ora in un carcere militare. Si chiama Bradley Manning. È un analista dei servizi segreti e ha 22 anni. Si trova in Iraq da appena 7 mesi. Ma chi è Bradley Manning? E com'è possibile che abbia avuto accesso a tutte quelle informazioni riservate? Manning diventa un analista in un momento in cui l'intelligence americana ha imparato l'importanza di condividere le informazioni. Anche questo è parte delle riforme seguite all'11 settembre, il cui scopo è fornire più dati possibili agli analisti come Manning. Manning viene assegnato al quartier generale del battaglione. Qui svolge un lavoro di intelligence per i comandanti dell'unità che preparano lo schieramento in Iraq. Un incarico che a Manning piace. Ma se da un lato Manning è orgoglioso di maneggiare segreti di Stato, dall'altro decide di non fare mistero della sua vita privata. Su Facebook si iscrive a gruppi sull'integrazione degli omosessuali nelle forze armate e clicca mi piace su quelli a favore dei matrimoni gay. Il padre è preoccupato. Bradley si stava esponendo in un modo che non lasciava molti dubbi. A me però sembrava che stesse andando a caccia di guai. Bradley Manning sta rischiando grosso. L'esercito americano ha adottato una politica definita non chiedere, non dire. I militari omosessuali sono obbligati a mantenere segreto il loro orientamento sessuale. Ma è anche l'attivismo politico di Manning a preoccupare i suoi amici. Su Facebook pubblicava fotografie dove esibiva cartelloni o si faceva vedere alle manifestazioni. Per i diritti gay? Sì, mi aveva colpito perché era molto pericoloso per la posizione in cui si trovava. Sempre in questo periodo, Bradley Manning inizia una relazione con Tyler Watkins, un ragazzo dello stato di New York. Nei fine settimana, Manning lo va a trovare a Boston, dove Watkins studia. Durante quei brevi viaggi, il giovane analista dei servizi segreti trova anche un nuovo gruppo di amici. Sono tutti studenti di informatica e hacker. WikiLeaks è già un sito molto noto e Julian Assange un personaggio stimato dagli hacker. Il suo supervisore non è convinto di mandare Manning in Iraq. Teme che possa rappresentare un rischio sia per sé che per gli altri. Ma in Iraq c'è bisogno di analisti qualificati. E dunque Bradley Manning finisce in Iraq. È metà dell'ottobre del 2009 quando Manning arriva in Iraq e lì viene assegnato a una struttura top secret. Le due reti segrete a cui ha accesso sono JWIX, che contiene segreti militari di alto livello, e Cybernet, dove sono conservati migliaia di cablo diplomatici. La quantità di informazione a cui ha accesso è enorme e lui riesce a introdurre nella sua postazione dei CD masterizzabili e così scarica migliaia di dati sensibili. Gennaio 2010. Bradley Manning torna negli Stati Uniti in licenza. Si reca a trovare Tyler Watkins. Ma il loro rapporto è in crisi. Secondo il suo amico Jason Edwards, Manning si sente abbandonato. Durante la sua settimana a Boston, Manning partecipa a una festa organizzata da David House nell'hackerspace dell'Università di Boston. Ero all'ultimo anno di informatica e ho fondato questo laboratorio aperto che ho chiamato BILS, Boston University Information Lab and Design Space. Bradley è venuto all'Open Day e quella sera c'era un'infinità di gente. Per gli investigatori è in questo periodo che Manning carica o consegna a qualcuno due grossi file di dati. I war log sull'Iraq e quelli sull'Afghanistan. Il punto è capire in che modo Assange sia entrato in possesso dei documenti. È stato solo un destinatario passivo oppure qualcos'altro? Io credo che Assange sia stato abbastanza furbo da aver tentato di evitare a tutti i costi un contatto diretto con Bradley Manning. Sapeva che se qualcosa fosse andato storto, questo in seguito avrebbe potuto costargli l'accusa di complotto a scopo di spionaggio. Ma è possibile che WikiLeaks non conosca per niente i suoi informatori e che tutto sia assolutamente anonimo? Sentiamo Assange in un'intervista su questo argomento. Anziché mantenere segreta l'identità delle nostre fonti, preferiamo non sapere proprio quali siano. Non abbiamo mai perso una delle nostre fonti. Abbiamo la tecnologia adeguata per proteggere le persone. Assange sostiene di aver progettato WikiLeaks in modo tale da non sapere neppure chi siano le sue fonti. Le nostre fonti sanno quanto ci impegniamo a proteggerle. Non sappiamo se il signor Manning sia o non sia una nostra fonte. E comunque, anche se lo sapessimo, avremmo comunque l'obbligo morale di non rivelarlo. Ma come riuscirebbe a impedirmi di scriverti o di dirti in una chat che sono in possesso di un video su un massacro e che vorrei sapere come farvelo avere? Il nostro servizio di assistenza utilizza chat completamente anonime. A noi risulta tutto anonimo. I nomi degli utenti sono anonimi. Intanto, nel febbraio del 2010, Manning torna in Iraq e nell'arco di due mesi scarica altri documenti, tra cui 250.000 cablo confidenziali del Dipartimento di Stato. È la fine di aprile. La vita privata di Bradley Manning sta andando in frantumi. Quando su Facebook scopre che il suo amico Tyler Watkins ha iniziato una nuova relazione, perde le staffe. Gli scrive: se non cominci a rispondere ai miei dannati messaggi, pianto un casino. Era abbattuto. Era appena stato degradato per aver fatto a botte con un altro soldato. Diceva di voler lasciare l'esercito. Insomma, non gliene andava bene una. Nell'ultimo messaggio che ricordo di aver ricevuto mi ha parlato degli effetti che avrebbero avuto alcune notizie. Mi disse: te ne accorgerai presto. Vedrai, tutto il mondo sarà scioccato. A fine maggio in California un hacker viene contattato e inizia a chattare con qualcuno che si fa chiamare Brothers87. L'hacker è Adrian Lamo, un nome molto noto nel cyber underground. Nel 2003 Lamo viene arrestato per essere penetrato nel sito del quotidiano New York Times. Il giorno prima della chat, di Lamo si parla in un articolo su Wired.com in cui si accenna ai suoi problemi psichici. Brothers 87 continuerà a chattare con lui per i 4 giorni seguenti. Parlava molto della sua vita privata, delle sue relazioni, delle sue esperienze nell'esercito, delle sue esperienze a casa. Lamo sostiene che Brothers 87 lo contatta anche per email e gli chiede amicizia su Facebook. In realtà dietro quel nickname si cela Bradley Manning, analista dei servizi segreti in Iraq. E sul suo profilo su Facebook compare quel nome usato in chat, Brothers 87. Poi in una delle loro chat, Brothers 87 inizia a fare allusioni a un folle australiano con i capelli bianchi. È stato allora che ha fatto il nome di Julian Assange. Ha detto che Julian era la persona di Wikileaks con cui aveva stabilito il contatto iniziale. Manning dice anche di aver divulgato migliaia di documenti segreti, tra cui un'ingente quantità di cablo diplomatici. Gli ho chiesto se ci fosse un modo per recuperare i documenti. Mi ha risposto: sono già stati caricati sul server di Wikileaks. Un'affermazione inequivocabile. Secondo Lamo, Manning rappresenta un rischio per la sicurezza. È inoltre convinto che, mantenendo il segreto, egli stesso potrebbe essere considerato complice di un reato. Lamo decide allora di chiamare Tim Webster, suo vecchio amico. Adrian era piuttosto combattuto. Ci siamo confrontati. Lui non sapeva se quella fosse la cosa più giusta da fare, se tradire la fiducia di quella persona fosse corretto, considerato quello che aveva fatto. Ma Adrian si è reso conto che non potevamo consentire a nessuno di diffondere informazioni segrete come quelle. Non potevamo permettere che una cosa del genere andasse avanti. Webster consiglia all'amo di continuare a mantenere i contatti via chat il più a lungo possibile per scoprire ulteriori dettagli. E mette anche in guardia il Pentagono su una possibile falla nella sicurezza. 26 maggio 2010. Bradley Manning viene arrestato. Ad annunciarlo, un post su Facebook. Abbiamo avuto la conferma che Manning era stato arrestato quando lui stesso ha chiamato la zia dal carcere, chiedendole di aggiornare il suo profilo su Facebook con un messaggio. Quello sarà il suo ultimo post. Nelle settimane precedenti all'arresto di Manning, Assange è in giro a promuovere Wikileaks. Dal 2006 il suo sito ha accumulato migliaia di documenti sfuggiti al segreto, ma il video Omicidi Collaterali lo proietta su un altro livello. Ma la notizia dell'arresto di Manning ha l'effetto di una bomba. Ascoltiamo Daniel Domscheit-Berg, collaboratore di Wikileaks, e poi ancora Julian Assange. That was terrible. È stato terribile. Era successo proprio quello che avevamo sempre temuto, cioè che una nostra possibile fonte venisse scoperta. Su internet si vedeva dappertutto la foto di quel ragazzo così giovane e dall'aria molto gentile. È un fatto abbastanza unico che una persona di quell'età avesse accesso a materiale del genere. Adrian Lamo, dopo il fatto, gli ha scritto un'email. Sì, esatto. E ha cercato di convincerlo a cambiare la versione dei fatti. Sì, pensavo che se c'era una possibilità di... Allora, vorrei chiarire una cosa. Noi ci troviamo in una situazione molto difficile per quel che riguarda Bradley Manning. La difficoltà sta nel fatto che la nostra tecnologia non ci consente di capire se qualcuno è una nostra fonte o no. Perché il modo migliore per mantenere un segreto è non averne neanche uno. Chi ha letto la conversazione ha trovato diversi passaggi in cui si parla di lei e del vostro rapporto. Dalle trascrizioni sembra di capire che voi foste in contatto, forse via chat o per email, comunque che tra di voi ci fosse una comunicazione. Abbiamo esaminato tutto il contesto. Ci siamo chiesti se non si trattasse di un esibizionista che cercava di mettersi in mostra insinuando una qualche connessione con noi. Noi non conosciamo nessuna delle nostre fonti. Io non avevo mai sentito parlare di Bradley Manning, come non avevo mai sentito parlare di Bradas 87. Ma a questo punto WikiLeaks deve difendersi, difendere il modo stesso di agire del suo sito. Assange è di fronte a un dilemma. Se WikiLeaks riconoscesse di essere in possesso di altri documenti presumibilmente provenienti da Manning, rischierebbe di danneggiare ancora di più la propria fonte. Avete discusso tra di voi se la pubblicazione dei war log e successivamente dei cablo avrebbe potuto arrecargli ancora più danno? Abbiamo discusso della situazione. C'era un ragazzo che era stato inquisito con l'accusa di essere la presunta fonte del video omicidi collaterali. Ed era stato rinchiuso in un carcere militare. Ma noi avevamo già ricevuto e pubblicato documenti militari molto tempo prima che Bradley Manning si arruolasse nell'esercito. Assange resta nascosto per un mese. Poi torna allo scoperto. Ha deciso di andare avanti e di pubblicare i war log sull'Afghanistan e sull'Iraq, in tutto quasi 500.000 file, e cerca dei collaboratori. Voleva mettere in piedi una colazione. Quello era il suo modo di affrontare la questione. Perché non iniziare una colazione tra alcune testate giornalistiche come il Guardian, il New York Times e il Der Spiegel? Abbiamo insistito per avere il New York Times. E abbiamo anche insistito sul fatto che fosse proprio il New York Times il primo a pubblicare il materiale. In questo modo, qualora si fosse aperto un processo di fronte a una corte su chi fosse stato il primo a pubblicarlo, se una testata straniera o americana, non ci sarebbero stati dubbi sul fatto che era stata una testata americana. Perché è protetta dal primo emendamento? Sì, dal primo emendamento. Non è un atto di spionaggio? Esattamente, non un atto di spionaggio. Ma non volevamo neanche che ci fossero tentativi di manipolazione da parte di nessuno. Nelle quattro settimane successive, i giornalisti del New York Times, di Der Spiegel e del Guardian esaminano con attenzione i war log a caccia di scoop. Non trovano nulla che li colpisca in particolare, ma i documenti abbondano di dettagli. Erano documenti di prima qualità, un ritratto dettagliato e senza filtri di come si svolgevano le due guerre, giorno dopo giorno. Non penso che quelli fossero documenti che si potessero reperire facilmente tra le carte del Pentagono per via della crudezza di quelle informazioni. Era vera e propria cronaca della vita quotidiana durante la guerra. I giornalisti delle tre testate decidono di oscurare i nomi di tutti gli informatori civili che lavorano per le forze armate statunitensi, ma Assange non è d'accordo. Solo all'ultimo momento si decide, prendendo di sorpresa anche il suo staff, che si trova a dover modificare migliaia di file in poche ore. Seguendo un procedimento definito contenimento dei danni, Assange consente di trattenere 14.000 documenti, i più sensibili. Ma nonostante questo, non tutti quelli che sono a rischio sono protetti. Parliamo della questione del contenimento dei danni. Lei è stato molto criticato per questo, per il fatto che all'inizio non se n'era preoccupato. Questo è assolutamente falso. È il classico stratagemma retorico con cui... E allora perché tutti insistono su questa storia? No, perché molti dicono che a lei non sarebbe importato se quegli informatori fossero stati uccisi? È assolutamente falso. E quindi lei rifiuta l'idea o l'accusa che le è stata fatta, cioè di essere soltanto interessato a pubblicare i nomi? È completamente falso. Noi abbiamo una procedura che si chiama contenimento del danno. Questa procedura è estremamente importante, perché non vogliamo che accada niente a chi è innocente e rischia di essere colpito. Nonostante ci siano state delle tensioni con New York Times, il 28 novembre del 2010 i documenti vengono pubblicati dal New York Times, dal Guardian e Der Spiegel. La notizia fa il giro del mondo ed è uno scandalo sconvolgente. La pubblicazione dei cablo porta alla luce dichiarazioni spontanee e spesso imbarazzanti. Finora sono stati pubblicati solo 12.000 documenti e le conseguenze si sono già fatte sentire. Una decina di questi documenti diplomatici provenienti dalla Tunisia fanno capire la corruzione dilagante nel paese. Da questo partiranno manifestazioni di piazza che diventeranno una vera e propria rivoluzione, innescando un processo a catena che coinvolgerà anche l'Egitto. Ma intanto, che fine ha fatto Bradley Manning? Si trova in isolamento come i criminali più pericolosi, ma non è ancora stato condannato. Su Bradley Manning pendono 22 capi d'accusa, tra cui il possesso illecito di materiale segreto e la collaborazione con il nemico. Sono stato il Bradley Manning. Daniel Ellsberg, che nel 1969 ha divulgato dei documenti segreti del Pentagono nella speranza di mettere fine alla guerra in Vietnam, si schiera dalla sua parte. Se Bradley Manning è un traditore, anch'io sono un traditore. Lo stesso fanno i suoi amici informatici a Boston. Sono un amico di Bradley Manning. Negli ultimi mesi sono andato a trovarlo mentre era in isolamento. E vi farà piacere sapere che sono proprio queste cose che gli danno speranza. Manning ha rifiutato di collaborare alle indagini. I suoi sostenitori dicono che il governo stia cercando di farlo crollare. Da Quantico, in Virginia, Manning viene trasferito in un carcere militare a Fort Leavenworth, in Kansas. Il suo avvocato dichiara che le sue condizioni sono migliorate. Il 23 febbraio 2012 è stato formalmente incriminato e rinviato di fronte alla corte marziale. Bradley Manning nel 2013 dunque è stato condannato a 35 anni di detenzione. Dopo la condanna, pubblicamente reso noto di non riconoscersi nel genere maschile, ha intrapreso un trattamento ormonale per il cambio di genere, scegliendo il nome di Chelsea Elizabeth. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare in podcast sul sito www.radio24.it.